Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Una squadra che ha meritato la vittoria in lungo e in largo perché è più forte, ha giocato meglio, a prescindere da tutto, ma una squadra che ha nettamente dominato l'avversario e meritato la vittoria. Io sono incazzato perché non è giusto, capito? Certamente il risultato finale è condizionato per le decisioni arbitrali e tutta Italia l'ha visto, quindi che si può dire di più? Decisioni arbitrali vergognose. Volevo fare complimenti alla squadra e basta. Decisioni arbitrali vergognose. Faccio fatica a dare il voto ai miei e a me, quindi all'arbitro non do nessun voto. Ragazzi, sono dei giorni in cui bisognerebbe presentarsi mimetica davanti a questo microfono. Noi invece indossiamo i jeans a zampa d'elefante e la collana di fiori, perché proveremo a portare un po' di giustizia e di pace, Pierluigi Pardo. Come va? Come va? E come vuoi che vada? Gli abbiamo vissuti troppe volte. Marzo, primavera, c'è il sole anche a Milano. Abbiamo scavallato. Abbiamo scollinato. Manca poco, dai. Vabbè. Tiziano Pieri, buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio anche a lei. Allora, argomenti del giorno, vi avete già capiti. Juventus, Napoli di ieri sera e tutto il polverone gigantesco che si è alzato. Fino al cielo e oltre, e poi parleremo dopo le 15 di questa farsa del Closing Milan, e sarà con noi oltre a Marco Vignazzo anche il maestro Bruno Pizzul per parlare di questo e di altro. Quindi puntatone, che spettacolo. A che ora? Alle 3, dopo GR delle 3 mi ricollego, devo salutarlo Pizzul. Pizzul lui in persona. È davvero un piacere partecipare a questo programma radiofonico. Arriva Genta. Dopo però, adesso è il momento di Tiziano Pieri. Primo tempo, spinta di Strenis su Dybala, per Valeri non è rigore, per te? Allora, spinta su Dybala, il lancio di Bonucci, mentre si sta coordinando, entra in possesso del pallone, avanza, mentre si sta coordinando e tirando, da dietro rinviene Strinic in netto ritardo e lo spinge col fine di sbilanciarlo, perché non ha nessuna possibilità di prendere il pallone. E per me questo è calcio di rigore e sarebbe stata una relativa espulsione, perché in questo caso non è un intervento onesto, perché non ha nessuna possibilità di prendere il pallone. Quindi questo episodio, ricordiamo che in Coppa Italia non ci sono i tanto odiati e bistrattati addizionali, quindi sì, ha deciso in autonomia Valeri. Benissimo. Secondo minuto del secondo tempo, pestone di Koulibaly su Dybala, che in quel momento sta già comunque cominciando una caduta. Allora, questo ancora è un episodio molto, molto complicato, che ricorda in... No, sul più bello. Richiamiamo Tiziano Pieri subito. Cosa ricorda, fra l'altro? Adesso apriamo le telefonate 800 24 00 24. Cosa stava per dire l'arbitro Pieri prima che la censura telefonica di non so quale operatore? Chi è stato? La RAI, che tra cui stanno volando stracci a tutt'oggi tra Napoli e RAI. Chi è stato? La censura, l'Interpol, chi è stato? Adesso ci ricolleghiamo con Tiziano Pieri e proviamo a capire se è tutto ok innanzitutto. Posso dire, visto che insomma facciamo la... Sì. Ovviamente commentiamo quello che ha detto, per me era rigore quello l'ottavo minuto su Dybala, sicuramente forse più da giallo che da rosso, nel senso che comunque c'erano tre giocatori del Napoli lì in zona. Si può insomma discutere sul provvedimento disciplinare, che fosse rigore questo non... Il primo episodio si vede chiaramente la mano destra che spinge. È una spinta sulla corsa. Quindi, insomma, Tiziano Pieri, però, è tornato. Allora, siamo al secondo episodio. Siamo al secondo, siamo cosa al secondo ricorda episodio. Coulibaly. Quindi, stavamo analizzando questo episodio che è molto difficile e al limite, e a me ricorda molto da vicino l'episodio di un mese fa in Juventus Inter, dove Mandzukic entrò diciamo su Icardi. Questo però mi riferiva all'episodio seguente. Ora analizziamo quello del portiere Reina su Quadrado. No, prima Coulibaly su Dybala. Ok, perfetto. Coulibaly su Dybala. C'è una sorta di sandwich. Bonucci sta andando a contrastare Albiol. Ok? Aspetta, Tiziano, andiamo con ordine. Coulibaly, il fallo di Coulibaly su Dybala, Baleri dà rigore. Ok, io sono andato avanti, questo è netto, non l'avrei neanche analizzato. Coulibaly su Dybala, questo netto. È un rigore netto, accento alla caduta, c'è un pestone sul piede, è vero che accento alla caduta, forse memore del primo tempo che tentando di colpire il pallone qui non ha provato a continuare l'azione, ecco, questo è un brutto vezzo. Guarda, che se posso, se posso permettermi... Se posso permettermi, il vero unico, diciamo, l'unica vera curiosità è proprio questa, cioè che il tipo di caduta non sembra coerente con il tipo di intervento, però sì, l'intervento onestamente è da rigore, nel senso che è un pestone. C'è un pestone sul piede che determina. Sì, poi Dybala probabilmente stava già cadendo. Va bene, allora però, andiamo a Pjanic, andiamo con Pieri a Pjanic su Albiol. Questo sandwich, Bonucci, Pjanic, ecco, su Albiol. Questo secondo me è l'episodio insieme a quello seguente che fa la partita, perché dobbiamo, concedetemi un secondo, perché Valeri la partita l'ha condotta bene con 7 ammonizioni, poi gli episodi hanno determinato la prestazione, perché la partita l'ha condotta bene, non ci sono state gazzarre, i giocatori l'hanno seguita, hanno protestato sugli episodi. Anche il post partita infatti è stato tranquillo. No, quello sicuramente porta poi gli episodi alla moviola a giudicare gli arbitri, ovviamente. Io parlo dei 90 minuti sul campo. E Valeri è stato seguito dai calciatori e hanno protestato sugli episodi, a torto o ragione. A mio modo di vedere, questo episodio di Albiol è molto difficile. Cercherò di essere chiaro, non abbiamo il supporto delle immagini televisive, cercherò di spiegarmi. Stretto in questo, Bonucci sta andando ad attaccare lo spazio per occuparlo prima di Albiol, si ferma per tempo perché vede che Albiol è in vantaggio, cosa che non fa Pjanic. Pjanic, esatto, cerca di colpire il pallone, manca col calcio il pallone, col piede di richiamo colpisce lo spinco del difensore del Napoli, di Albiol. Sì. Di conseguenza questa torsione porta di fatto, che poi anche in questo caso Albiol accentua la caduta come ha fatto Dybala, sì, per par condicio, diciamo. Però sì, questo si configura il reato a livello di regolamento sportivo di negligenza da parte di Pjanic, perché non significa che il calciatore mostra una noncuranza di attenzione e considerazione nell'effettuare un contrasto o una giocata. Perfetto. Che agisce quindi senza precauzione e di conseguenza non è necessario nessun provvedimento disciplinare, ma il fatto tecnico, a mio avviso, in un episodio difficile era calcio di rigore. Era calcio di rigore. Perfetto. Secondo chiudiamo. Chiudiamo con l'uscita di Reina su Quadrado. Per Valeri è rigore. Era l'esempio che facevo prima, che mi ricorda molto da vicino l'episodio di un mese fa di Juventus-Inter, ovvero Mandzukic su Icardi, in scivolata, prende il pallone, lo sposta, il pallone rimane nella disponibilità del calciatore e in quel caso, quasi giudizio unanime, è stato detto che quello non era calcio di rigore, perché Mandzukic era entrato sul pallone. Allo stesso modo, questo lancio di Dybala per Quadrado, che si è visto lanciato a rete, e Reina cosa può fare? Può entrare, fa una giocata, un intervento onesto, si è in scivolata con le braccia tese, cerca di prendere il pallone, lo tocca col braccio, gli fa cambiare traiettoria allo stesso modo di Mandzukic. Io per coerenza questo non lo considero rigore, perché io dissi che per me è un episodio al limite, ci dobbiamo mettere d'accordo. Se quello di Mandzukic era rigore, anche questo è rigore. Se non era rigore quello, anche questo non è rigore. okay. mio modo di vedere, la spiegazione logica è questa. Chiarissimo. Poi c'era un altro episodio, il gol Masson del Napoli, l'1-0, è un episodio al limite, poco davanti, le direttive FIFA dicono nel dubbio non segnalare, l'assistente Passeri in questo caso ha deciso di non segnalare, quindi abbiamo chiuso tutti i casi da Moviola di questa partita complicata. Ripeto, a me onestamente la direzione di gara sotto l'aspetto disciplinare è piaciuta, di Valeri un po' meno, l'aspetto tecnico, di conseguenza il voto non potrà essere positivo, no, se così possiamo dire. Non può essere positivo, Tiziano. Io ti ringrazio moltissimo, hai fatto chiarezza in maniera impeccabile. Adesso ci fermiamo per il traffico con ritardo, ma giustificato in questo caso, e poi torniamo con gli ascoltatori. 800 24 0024. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Bobo Viel. Tutti convocati. Auguri, auguri, auguri. Vabbè ragazzi, sono commosso, è il compleanno di Giorgio De Luca. Mezzo anche il mio, perché sono compleanno di Giorgio De Luca? Compleanno di Giorgio De Luca, sì. Il nostro anche autore. Il tuo? Il mio, sai, io sono nato sull'isola che non c'è il 29 febbraio. Il 29 febbraio? Quindi... Io il 4 marzo, ma ragazzi, veramente, allora ditelo che per lavorare a tutti i convocati bisogna essere il segno dei pesci. Capuano che cos'è? Capuano non me lo ricordo adesso. Non mi sembra pesci Capuano, occhio e croce. Non sembra pesci nemmeno. Pesci è un mezzo marzo. Ma neanche De Luca, De Luca per il sognatore. Ma anche Capuano, ci avrà i suoi sogni, però... È razionale, preciso. Senti Pierluigi, che segno è Capuano? Non lo so, adesso te lo adesso comunque ragazzi, vogliamo dire questa cosa, adesso poi torniamo a parlare della Moviola. Il maschio pesci non si batte, lo diciamo con onestà. Lo diciamo col massimo rispetto anche di tutti gli altri 11 segni dello zodiaco, e anche il discorso vale solo per gli uomini che lavorano in radio, ma il maschio pesci non si batte. Non si può battere. Prima di Alberto e Saverio da Milano, attenzione, perché abbiamo un ospite a sorpresa che ha chiesto di intervenire, e ovviamente tutto lo spazio che vuole. Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione del Napoli. Buongiorno Nicola. Buongiorno Carlo, buongiorno Pier, c'è anche Cruciani? Guardo oltre il vetro ma non lo vedo. Barisoni sta vedendo come apre New York. Perché hai bisogno di Cruciani e Barisoni? No, mi faceva piacere, insomma. Ti faceva piacere? Giannino, fra un po' arriva Giannino, intorno alle 3:15 arriva Giannino. Poi fra un po' arriva anche Enrico Ruggeri. Allora ragazzi, a parte gli scherzi, sì. Io innanzitutto vi ringrazio, normalmente voi sapete che noi non interveniamo e io non ho intenzione di intervenire su aspetti tecnici che non mi competono, ma tanto voi non me li chiedereste. E nemmeno nello specifico, mi è sembrato di sentire che Pieri abbia detto che su Albiol c'era rigore, sì. E che mi sembra di aver sentito, perché poi ero in macchina, è andata via la linea, che su Reina probabilmente il fallo di Reina non fosse fallo da rigore. Ha detto che dubbio, così come l'episodio Mandzukic su Icardi in Inter-Roma. Benissimo. Possiamo discuterne. Però io adesso non voglio discutere di questo, ma io voglio chiarire una cosa, e sono contento, a parte gli scherzi, che ci sia Pier, perché Pier è un telecronista. Sì. Perché noi ieri interveniamo? La prima cosa che voglio dire velocemente è che noi siamo in assoluto la società di calcio che interviene, tra virgolette, contro gli arbitri meno di tutti. Negli ultimi 5 anni, da quando io sono a Napoli, noi siamo intervenuti 4 volte in una maniera, diciamo, diretta. Supercoppa di Pechino, un altro Napoli-Juventus con Benitez, Chiellini che aveva una specie di turbante, una semifinale col Dnipro e ieri. Tutte le altre volte, su mia indicazione, su indicazione del presidente De Laurentiis, noi non commentiamo le decisioni degli arbitri, se non l'allenatore che a domanda in diretta, quando parla dopo una partita, può dire secondo me era rigore o non era rigore. Sì. Noi pensiamo che gli arbitri siano un anello molto importante, ma anche tra virgolette molto debole di questa catena e di questo business, perché sono delle persone che non hanno tifosi, che lavorano da soli, che sono spesso lasciati a loro stessi e che hanno un compito molto ingrato. Molto ieri hanno sbagliato, questo è quello che penso io, molto difficile, e sono bravissimi, E questo lo pensiamo tutti quanti. Ora, il vergognoso che voi avete fatto sentire di tutto non è indirizzato, come dire, agli arbitri, ma alle decisioni. E Pier, tu hai fatto delle telecronache di alto livello, una semifinale, una finale, no? Ti è capitato? Sì, certo. Se tu avessi fatto un rutto in diretta, ti fosse scappato, no? Un bel rutto fragoroso, sarebbe stato vergognoso oppure no? Beh sì, però chi è che ha fatto un rutto? Scusami Nicola. Cioè, allora, il concetto è che loro hanno fatto degli errori. Allora, il vergognoso è legato a quegli errori. All'errore, e questo è importante, non all'arbitro in assoluto e non alla categoria. Okay. E questa è una precisazione importante. Ma io aggiungo però un altro aspetto. Perché noi siamo intervenuti? Siamo intervenuti perché noi essenzialmente non interveniamo perché ci affidiamo ai media. Allora, sì, quando ci sono delle decisioni arbitrali favorevoli, sfavorevoli, ci sono, c'è Sky, c'è Mediaset, c'è la Rai. Sky e Mediaset fanno vedere tutto quello che succede e lo fanno vedere facendolo commentare come avete fatto voi, da ex arbitri, da personaggi di un certo tipo. Ieri, nella telecronaca della Rai, l'episodio di Albiol, che è cruciale, perché se tu fischi il rigore ad Albiol non ci sarà l'altro rigore. E non viene neanche sottolineato il fatto che l'azione di contropiede, comunque, che provoca il rigore, ci fosse o non ci fosse, avviene anche in un momento di concitazione e di come dire, proteste in quel momento, sì, che c'erano, sì, su un episodio. Noi non saremmo, e ci fosse stato Cruciani, io direi, di cosa stiamo parlando? Noi non staremmo parlando. Se noi non fossimo andati ieri a sollevare questo problema, l'episodio di Albiol non si sarebbe praticamente visto e oggi non ne parlerebbe praticamente nessuno, perché la Rai non fa vedere il replay. No, aspetta, perché... Nicola, la Rai fa vedere il replay. Allora, chiariamo questo punto che è decisivo, che è cruciale. Sì. Allora, sì. La regia è della Lega, responsabile Popi Bonnici. Okay. Con cui abbiamo parlato prima, non potevi intervenire. Ascolta, perché ascolta, dimmi. Benissimo, fa male a non intervenire, perché io non intendo quanto Popi Bonnici. No, no, ma attenzione, non poteva, se no interveniva, ascolta, non è che ascolta, ha declinato l'invito. Pier, dimmi. Qui c'è Pier sì, che è un grande esperto. Allora, sì, la regia è una regia internazionale. I registi non parlano con i telecronisti, non ascoltano per decisione di Bonnici o di chi sia. Il regista fa il suo lavoro senza interloquire. Ci siamo? E fin qui va bene. Ma secondo voi è plausibile che di fronte a un episodio controverso, che poteva essere questo, poteva essere un qualunque altro episodio, magari anche di ordine pubblico, se il telecronista dovesse dire la classica frase: c'è un episodio dubbio, chiedo alla regia di mostrare il replay, non arriva il replay, lo chiede una seconda e una terza volta, è plausibile pensare che il produttore esecutivo della Rai, che ci deve essere, non vada dal regista e gli dica: amico, guarda che è successa una certa cosa, fagli rivedere un attimo questo replay, perché il telecronista si è accorto che c'è un episodio dubbio. Sì. Non ci possono venire a raccontare che perché la regia fa... No. Perché altrimenti anche la testata di Zidane... No, ma io dico questo... Allora, Pier, tu che sei un telecronista... No, ma questa chiaramente la partita di ieri sera, come tutte le partite del campionato, quindi questo è assolutamente identico e hanno ragione sicuramente i giornalisti della Rai a precisare che la regia non è la Rai, così come quando le partite vanno in onda... Le partite di campionato, la regia non è né di Sky né di Media, la regia è della Lega Calcio, che ha questo advisor che si chiama Infront, e non c'è niente di strano, perché è lo stesso principio che viene utilizzato per esempio in Champions League. In Champions League la regia è una regia unica, non è che ogni televisione di ogni paese ha le sue telecamere, la regia è unica, come nell'NBA, come nella Formula 1, quindi questo non è uno scandalo. Quello che io trovo, ma ripeto, poi ognuno... Quello che secondo me è un po' mancato ieri era che di fronte a certi episodi che sono dubbi, siccome poi non è che il telecronista si può fermare, cioè la partita non è che si ferma, no? Per cui non è che puoi far metterti lì 10 minuti con le lenti e con le moviole, nelle situazioni facili quello che io faccio è chiaramente con la seconda voce dare un giudizio e una valutazione. Nelle situazioni difficili, e certamente ieri ci sono state delle situazioni difficili, noi abbiamo la grande fortuna, noi e anche Sky, di poter dire l'episodio è questo, le immagini sono queste, nel post partita facciamo tutta la lente, perché in quello stesso momento io ho la fortuna di avere Graziano Cesari o Bergonzi o De Marco che stanno lì con le lenti. Perfetto, e quindi appena succede una cosa allora, mettono subito al lavoro. Allora, per chiarire il quadro, ci sono sei club: Juventus, Torino, Inter, Roma, Sassuolo, Napoli, cui è delegata la produzione, quindi la scelta del service, operatori e macchine, la regia è della Lega. Tutte le immagini vengono riversate ai detentori dei diritti, quindi in questo caso alla RAI. Quindi mi pare, Nicola, che si possa spostare sul dopo partita la discussione oppure no? No, perdonami, no. Io lo capisco che siano delle cose che possono sembrare complicate, ma in realtà sono semplici. Io non metto in dubbio che il regista faccia il suo lavoro indipendentemente da quello che può chiedere il telecronista. Ma le immagini di Albiol, cioè quella immagine, se richiesta da qualcuno e se fatta per venire al regista, cioè la richiesta di rivedere quell'azione, gli fosse arrivata, tecnicamente è semplicissimo, la isolano e gliela mandano. Il concetto è, non è stato fatto, cioè il telecronista non lo chiede. Ti dirò di più, quando Reina va a parlare, quando Giunto gli va a parlare negli highlight, questo Albiol non c'è, l'abbiamo dovuto richiamare noi e l'hanno dovuto far vedere. Se noi non fossimo negli highlights dopo, parlare, negli highlights dopo non c'è, però il replay dell'intervento su Albiol, Nicola, per chiudere, sì, è andato in onda due è volte. Andato in onda. E allora, se è andato in onda, scusami, perché sì, non è stato mandato prima su richiesta del telecronista, che pur sapendo che non ha una linea diretta con Infront, sa che c'è un produttore esecutivo della RAI che può sentire che il telecronista dice c'è un episodio dubbio poco prima del rigore del gol, quindi della Juventus, lo possiamo vedere. Se lo dice due volte, Pier lo sa e capisce di che cosa sto parlando, sì, sì, ma no, il produttore esecutivo lo va a prendere e glielo butta in onda. In qualche caso l'ho anche fatto, nel senso che quando ci sono situazioni particolarmente eclatanti questa cosa può essere richiesta, però ribadisco, questa era una situazione eclatante, te la dico io da telecronista, sì, allo stesso modo, però sai che c'era per esempio un probabile rigore su Dybala del primo tempo, secondo me ma non lo sto mettendo in dubbio, ti ribadisco che secondo me quello che senza nulla togliere è il post partita, perché nel post partita tu devi sapere, ma proprio come costruzione mentale, perché poi le moviole esistono e sono una componente importante del calcio, perché gli episodi del calcio esistono. Poi io non sono un grande amante della moviola, nel senso, a me piacerebbe valutare la partita nel complesso, però è ovvio che tutta Italia ne discute, quindi lì probabilmente si poteva essere un po' più pronti. Io vi chiedo però se c'è stato un pentimento, il tweet di ieri, pentimento è una parola grossa, ma il tweet di ieri sera è stato veramente un tweet molto forte nei confronti di una... Io penso che però al di là di questo noi abbiamo avuto segnalazioni da una quantità di gente che non era mai, come dire, comparsa in una maniera così massiccia sul fatto che la telecronaca non è stata delle più felici. Allora, a un certo punto, se non dico lo dicono i tifosi perché i tifosi sono tifosi, ma se lo dicono persone qualificate, di alto livello, che conosciamo anche io e te senza fare nomi perché non voglio neanche che tu lo sappia, e mi viene detto questo, e ci aggiungiamo che comunque certe cose non sono state mostrate, e ci aggiungiamo tutto il resto, io penso che un tweet di protesta di quel tipo ad una televisione di Stato che vive anche dei soldi pubblici miei, tuoi e tutti quanti gli altri, tra l'altro presi anche dalla bolletta del telefono, io penso che ci possa stare e nessuno si debba offendere. Questo è quello che penso io, ma, e voglio concludere in una maniera molto serena, quello che io ci tengo a dire, al di là degli episodi arbitrali, perché poi episodi sfavorevoli oggi sono per noi, domani saranno per altri, alla fine io penso che si equilibrino tutti, ma quello che deve essere chiaro è che noi abbiamo un enorme rispetto della classe arbitrale e lo dimostra, lo ribadisco, e voi siete grandi giornalisti, lo potete andare a verificare, il fatto che noi siamo la squadra e la società di calcio che protesta meno in assoluto. Abbiamo il minor numero di ammonizioni e quindi di espulsioni per proteste, meno di qualunque altra squadra, e soprattutto noi non protestiamo mai, se non 4 volte in 5 anni, che mi sembra una media ottima. Va bene, Nicola, il Napoli ritorna a parlare oppure vale ancora silenzio stampa? Silenzio stampa è una decisione aziendale, per adesso preferiamo tenerla, però è chiaro che prima o poi finirà. Va bene, ok. Nicola, grazie, ti ringrazio. Grazie a te. Grazie. Siamo in ritardissimo sulla borsa. Sì, molti ascoltatori. Lo dico a De Luca, insomma, qui il vero tema adesso, al di là di tutto, al di là della polemica con la Rai, che poi capite, insomma, è anche un po' antipatica da commentare per noi che lavoriamo per altre testate, ma è invece il chiarimento sul discorso arbitrale. Ecco, quindi io farei subito un tweet, professor De Luca, perché credo che questa sia una presa di posizione ufficiale proprio da agenzia. Sentire il Napoli che in qualche modo precisa che quella dichiarazione così forte di Giuntoli era riferita unicamente alla decisione arbitrale, non certo all'arbitro in questione e a tutte, peggio ancora, a tutta la categoria arbitrale, mi sembra che sia un segnale quantomeno magari un po' tardivo, però di rasserenamento, sì. E vada comunque sottolineato, no? Va bene, fermiamoci un attimo. Tutti convocati. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Dal 4 marzo al 13 maggio ascolta giovani talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Tutti convocati. L'episodio a favore, l'episodio contro, ci sta tutto nel calcio, forse ci appassiona per questo il calcio, perché spesso risulta imprevedibile, ma quando una partita viene pilotata come l'ha pilotata oggi l'arbitro di Roma, con degli errori marchiani, evidenti, perché signori miei... Vogliamo parlare del loro gol, che se fosse capitato al contrario mi fanno vedere il fotogramma dicendo che è fuori gioco Caleon, perché è fuori gioco di tanto così, a me frega niente, ma è già successo da loro in passato, ti ricordi? In casa da noi, chi è che era? Llorente, in fuori gioco di un millimetro, allora fuori gioco Caleon, quindi primo tempo già me l'hanno rubato loro che vincevano 1-0 con un tiro. Perché non sono errori arbitrali, qui c'è malafede, qui c'è qualcuno che scientemente ha deciso da un momento all'altro che il Napoli dava fastidio e a Roma in finale non ci doveva andare. Mettici un po' questo, mettici lo strapotere di questa società che ha stancato sinceramente, perché vorrei che qualcuno domattina si svegliasse e avesse il coraggio di dire basta. Quando usate parole come vergogna, vergogna la dovete provare voi. Siete voi che vi dovete vergognare. Voi dovete fare solo una cosa stasera andando a letto. Voi vi dovete vergognare. Basta con questo calcio sporco, basta con questo calcio che si decide a tavolino, basta con questi arbitri che soffrono di quale strana patologia, sudditanza psicologica o altre patologie stranissime che io non conosco, basta, siamo stufi, siamo stanchi, basta. Voi vi meritate di fare il campionato della parrocchia e gli altri quello dell'Europa, vi dovete vergognare, perché in Europa voi non ci dovete andare, perché date dei messaggi negativi, di odio, di astio, voi... Allevate la gente non a fare il tifo e a vivere nello sport con passione, li allevate all'odio e all'astio. E allora, prima di andare a letto, tutti voi stasera, tutti, vi dovete vergognare. E vai col napalm da parte di Alvino e Zuliani. E vai col napalm. Pierluigi Pardo, adesso ascoltatore Alberto e Saverio, sono lì da un pezzo. Alberto Dica. Ciao, buongiorno. Ciao. Pronto? Sì. Vai. Questa paura con personalità. Allora, io volevo dire una cosa e poi fare una piccola richiesta a Pardo. La prima cosa, innanzitutto, tantissimi auguri a Giorgio De Luca, che è il numero uno indiscusso, è un grande, quindi trattatelo bene. Non ti preoccupare, auguri, auguri, auguri. Anzi, Giorgio, se vuoi stasera, se non hai programmi, puoi venire a casa, ti facciamo un bello spaghetto aglio olio, siamo a posto, eccetera, eccetera, amici. Sarà fatto. La seconda cosa che volevo chiedere a Pardo, fagli un bel regalo, invitalo a Controcampo. fallo sedere vicino alla sala, fagli sto regalo contro campo. Perché ah no, come al processo di Biscardi, processo di Biscardi. No. Tiki-taka, quello. Invitalo perché è un grande e poi basta, Auriemma è antipatico, non se ne può più, anche i napoletani. Tu vuoi di Luca al posto di Auriemma? Assolutamente sì, è antipatico come quella volta che vai in bagno e ti fai pipì sulla cintura per sbaglio, cioè cosa del genere. Va voglio bene. Giorgio De Luca in TV. Va bene, poi? Basta, finito? Quindi, di Juventus-Napoli chi se ne fotte? Giorgio De Luca, Uber Alles, va bene, comunicheremo. Grazie Alberto, Saverio. Ciao Carlo, tanti auguri. Ciao, grazie. Senti, io ho sentito 10 minuti responsabile comunicazione, sai che a parte le sue unghie non ho sentito nulla. Cioè, ma di che stava a parlare, ragazzi? Moviola, il telecronista che doveva comunicare l'episodio. Ma di che stiamo parlando? Questi verso febbraio, marzo, ogni anno iniziano a piagnucolare la testata di Bonucci, Alessandro, adesso la Coppa Italia. Dai. E quando è che vogliono crescere? Chiediamoci questo, quando il Napoli vuole crescere? Beh, io posso dire, sì. Visto che poi a questo momento ancora non abbiamo parlato della partita. No, io penso che sinceramente questo post partita, non lo so, non so se farà bene al Napoli, glielo auguro di cuore, perché poi il Napoli è una di quelle società, Napoli e Roma sono due squadre in questi anni che hanno investito, che hanno avuto soltanto una grande sfiga, che è quello di avere una squadra più forte davanti, ma per il resto sono due squadre straordinarie che sicuramente in questi anni meriterebbero di alzare un trofeo. Il Napoli l'ha fatto a livello di Coppa Italia, insomma, per la continuità che hanno avuto a questi livelli. Detto questo, io non lo so, ridurre la partita di ieri agli episodi arbitrali mi sembra veramente... Mi sembra riduttivo, Pierluigi. Mi sembra riduttivo anche perché gli episodi arbitrali, sinceramente, sì. Insomma, li abbiamo visti. Li abbiamo visti. Ognuno ha la sua opinione, quella che conta di più è quella di Tiziano Pieri che abbiamo sentito prima. Io credo... Ho visto una squadra che è uscita dagli spogliatoi nel secondo tempo sotto 1-0 in casa, quindi con una situazione complicata. Sì. Ed è uscita la grande. Ha anche cambiato la squadra nell'intervallo, passando dalla difesa 3 a quella 4, e a Quadrato che è stato decisivo, tornando al modulo a 5 stelle. Insomma, analizzando seriamente la partita, vedo il maestro Pizzul, lancio il traffico e lo faccio entrare. Che dici? Oh, che bello! Che bello, eh? Tutti convocati. Voglio Giorgio De Luca in TV. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta. Tutti convocati. Pierluigi Pardo, davanti a me il maestro Bruno Pizzul. Ciao. Grande. Ciao, alto più che grande. Ciao Pierluigi. Come stai, Bruno? Sono anni che sogna di fare la tua imitazione in diretta con prezzo del pericolo. Con suprema sprezzo. Non c'è male. Diciamo non c'è male perché per male che vada potrebbe sempre andare peggio. Allora noi ci accontentiamo. Senti, prima utilizzo della radio. Facciamo gol a grappoli insieme dalle parti tue a Cormo? Facciamo una serata sul telecronaca. Se però mi prometti di imparare a dire il nome in modo corretto, non è Cormons, è Cormons. Vergognati. Va bene, 27 aprile, adesso poi dopo ci sentiamo. 27 o 28 aprile? Sì, come va? Va bene. In grandissima forma, maestro Pizzo, davanti a me. Allora, stiamo parlando di. Dillo sottovoce, dai. Va bene, di che cosa stiamo parlando? Dovina, stiamo parlando di Juventus-Napoli, di arbitri, di arbitri, di queste decisioni di Valeri, del popolo napoletano furibondo, a cominciare dal sindaco fino all'ultimo dei tifosi del Napoli. Se vuoi che aggiunga, non un carico, ma insomma 4-5 punti, 4 punti giocando a briscola, sì. Mettiamo anche... quello che ha detto Pozzo dell'Udinese a proposito dell'arbitraggio di Pajaretto in Lazio-Udinese. Sì, aggiungiamo. Certo. Quale ha detto che lui non pensa assolutamente che ci sia incapacità. È sicuro che sia malafede. Questo l'ha sbagliato, però l'ha detto. Sì. Quanto alla partita di ieri sera, sotto accusa anche la RAI per la gestione delle immagini. Prima è intervenuto Nicola Lombardo capo ufficio stampa del Napoli, e ha rincarato la dose. Ma sulle immagini o sul commento? Sulle immagini, perché ma dice le immagini non sono gestite dalla Bravo, radio. Bravo, perfetto, è quello che abbiamo spiegato. Le immagini non sono gestite dalla radio. Quello che dice, lo dico soltanto perché Bruno non ha sentito, quello che dice Lombardo è che la RAI, in casi eccezionali, si può fare, avrebbe dovuto chiedere un'immagine, un replay in più. In realtà, in qualche modo, lo si può fare attraverso il delegato di produzione, che nel frattempo va e chiede. Tra l'altro, in Coppa Italia è ancora più facile, perché sei l'unico che trasmette la partita, quindi da noi potrebbe essere diverso, perché siamo Sky e Mediaset con la stessa immagine, quindi ci potrebbe essere un contrasto tra chi lo vuol vedere e chi non lo vuol vedere. Ma onestamente, sì, è vero quello, perché tu lo sai che un po' tutti hanno il diritto di fare delle riprese, magari a proprio uso e consumo, che possono comunque, in caso di necessità, essere richieste per essere utilizzate anche nella messa in onda nazionale. Però insomma, mi sembra che la situazione sia un po' degenerata a livello anche di commenti e considerazioni, perché è vero ed è giustificato in qualche modo il malumore del Napoli, è altrettanto vero che sul piano della partita non si può dire che l'arbitro sia stato determinante, no? Anche se si può, sai, sempre dire se dava rigore lì, non dava il secondo rigore, dall'altra parte dicono c'era un rigore su Dybala prima, e siamo alle solite, insomma, no? Solo in Italia. Se posso permettermi, sì. Al di là della stima per Gianni Cerqueti, che non ha certamente bisogno degli avvocati difensori, ma io quello che dico in generale è che Cerqueti, Antinelli, cioè le persone che lavoravano lì, come tutti noi, siamo lì da tanti anni, quindi quello che mi fa sempre un po' effetto in questo momento qui è vedere professionisti che possono piacere di più o di meno, perché ovviamente è fisiologico, ma che improvvisamente vengono trattati come se fossero al servizio di una società piuttosto che di un'altra. Questo fa impressione, perché parliamo di gente che da 30 anni fa quel lavoro. Sì, ma e quindi, cioè, dici vabbè, ma che no, c'è una sai da che cosa da che cosa nasce questo stato di cose, che una volta non era così, per la verità, se non occasionalmente c'era qualche protesta, ma una volta non è mai stato una norma deontologica. Però da parte del giornalista sportivo, del commentatore, c'era quasi un obbligo di essere imparziale, super partes e via dicendo, no? Mentre ultimamente è abbastanza diffuso il tifo di parte anche da parte dei cronisti, e non solo nelle e allora lì meno. C'è la tentazione da parte di coloro che poi si sentono in qualche modo coinvolti nelle polemiche o in qualche ingiustizia arbitrale. Lo capisco. Ma ieri, guarda, secondo me veramente lo dico con profondo rispetto, l'unica cosa che un po' è mancata, lo dico da telecronista, era il Graziano Cesare di turno, che tu sai che a fine partita che interviene nel dopo partita, ma infatti secondo me l'oggetto del discutere è quello, perché poi le immagini gestite, come sappiamo, dalla Lega vengono messe a disposizione del detentore dei diritti. Poi ragazzi, la partita va avanti, Bruno insomma un'esperienza di 10 volte la mia, ma la partita va avanti, non è che tu puoi pensare di stare lì 5 minuti, di fermare la partita, di fare la moviola. Quindi per fare una moviola fatta bene su episodi oggettivamente complessi come sono stati quelli di ieri sera, c'è bisogno di tempo e c'è bisogno di qualcuno che stia lì a smanettare con le tecnologie di oggi, con le lenti, con le immagini, e di darti, con la sua credibilità e la sua autorevolezza, un giudizio. Poi è ovvio che pure Cesari, pure Bergonzi, pure i moviolisti di tutti i tipi possono essere discussi, perché molti episodi rimangono poi anche nelle rivisitazioni a bocce ferme lunedì con moviole, moviolone, lenti e via dicendo. Poi il giudizio, la valutazione non è uniforme, ognuno più delle volte resta della sua idea. Infatti Bruno, io non sono convinto che la VAR risolverà tutti i problemi. Perché non si tratta tanto di stabilire un fatto, se è avvenuto o meno, si tratta di stabilire un giudizio su quel fatto, e lì chiaramente la discrezionalità è sempre regna padrona. E tu pensa, ogni volta che c'è il fallo di mano, è volontario, non è volontario, è un movimento composto, scomposto, senza pensa, tornare a quello di Udine, pensa sul fuori, ma sì, beh, quello di Udine, ma tutti, ogni volta che c'è il fallo di mano, perché qualche volta lo danno, qualche volta non lo danno. è difficilissimo, no? Sì. È una aleatorietà anche nella valutazione arbitrale che va accettata senza drammatizzazioni, certo, come posso avviene da noi. Dire dalla tua esperienza che la Juve è sempre il grande alibi o comunque il grande piromane. Vince. È il grande piromane di tutte le polemiche. È chiaro che poi alla Juventus, insomma, viene sviscerato in tutti i modi quello che accade sul terreno di gioco, sempre con questo modo di concepire le cose per cui parte avvantaggiata, no? Per quello che si chiama sudditanza psicologica. Quello che esiste secondo te? Ma secondo me esiste non nel senso che sia qualcosa di volontario, ma è quasi inconscio. Sono d'accordo. Se io e te andiamo in giro per Milano e incrociamo il Presidente della Repubblica e un Vucumpra, non ci comportiamo alla stessa maniera. È quello che diciamo ogni volta. Però mi permetto di dire che a questi livelli qui ho di capito, partite, stiamo parlando di società che si assomigliano. Perché voglio dire, cioè non è, io posso capire che ci sia una... questo tipo di concetto statisticamente a favore delle grandi sulle piccole. È vero, ma siccome un po' tutte quelle le società di una certa fascia, non dico che godano di questa situazione, ma inevitabilmente sono coinvolte in questo andazzo, nel momento in cui una di loro affronta la Juventus che sta ancora al di sopra, inevitabilmente scattano questi meccanismi di carattere psicologico che inducono anche affermazioni che qualche volta potrebbero essere fatte con un po' di senso della misura in più. Bruno, io ti ringrazio per questo meraviglioso cameo. Allora, 27 aprile, segnatelo, Cormont, e come ti devo dire una cosa, non so, spero che non sia un problema per te. Dopo questo dibattito che facciamo andiamo a bere della ribolla. Non so se la cosa può essere un problema per te, so che non ami molto il vino. Non preoccuparti, però vedo che hai scelto bene, perché la ribolla gialla, che è un vitigno autoctono locale. Dolegna. Sui nomi dei paesi non andiamo bene. Mamma mia, ragazzi. Studia, Pardo. Io tra l'altro domenica vengo. Io imploro a tutta la regione Friuli e anche a Venezia Giulia, so che c'è rivalità. Chiedo perdono. Ho commesso due errori gravissimi, Dolegna e Cormont. Benissimo, vedo che sei però applicato per migliorare. Grazie Bruno. Ciao bello, ciao a tutti. Ciao. Grazie Gullit. Bruno Pizzu. Gullit lavora sullo stretto, un ottimo pallone, trova l'inserimento da quindi ad Ancelotti destro, gol! Grandissimo gol di Ancelotti. Tutti convocati. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Convocati. Ripartiamo alla grandissima. È sceso al piano di sopra da Sole 24 Ore Marco Verinazio, che tra poco ci dirà tutto sul closing. Ma quale closing? Sedicente closing. Buon pomeriggio. Sedicente closing, buon pomeriggio a te, Marco. E è tifoso del Napoli, dichiarato, equilibrato, tutti quanti lo sanno. Maurizio Crosetti, penna più illustre. Da oggi mi chiamate Crosing? Crosing. Certo. Va bene, ti chiameremo Crosing. Maurizio Crosing da Repubblica. Però ti firmi così su Repubblica, Sì, no, io non mi firmo così perché non credo né a closing, credo più agli opening. questo sospetto ce l'avevo da un po', ma mica solo io. Poi dopodiché, dopo domani chiudono tutto. Fantastico, arriverà Mao Zedong, Chuan Lai, tutti contenti. Però io... qualche dubbio, sai quando è la storia? Anch'io, quando poi alla fine ti deve sempre baciare o non ti bacia mai, forse sì. Non le piaci così tanto. Sì, no, ma è un dubbio che ho sempre portato, che ho sempre espresso anch'io, e Marco Benignazzo lo sa più degli altri, essendo il mio interlocutore abituale. Senti, ma vogliamo parlare della partita o continuiamo a polverizzarla, di quella di ieri sera? Ma io sì, parliamone, sarebbe bello parlare della partita, ecco, hai detto già tutto tu, ecco, perché mi pare che non si parli più delle partite, per niente, da Juve... Juve-Inter, che è stata una cosa, e poi uno arriva a casa, guarda la moviola e scopre di aver sognato, e poi a molte delle altre, non dico mica che non ci siano stati episodi, per carità, da Reggio Emilia, Sassuolo anche ieri sera, e anche a San Siro. A Bologna. Certo, non è un grande momento, però... Ci ricordava prima maestro l'idea. Bruno Pizzola anche a Udine domenica. No, ma questo, per carità, questo senz'altro, ma se passa l'idea, che la colpa è sempre degli altri e che c'è sempre l'intervento alieno a decidere il destino delle partite, non solo si concedono alibi, ma secondo me si racconta proprio un'altra cosa e non è corretto. Sì, no, allora Maurizio, io penso che i rigori ci fossero tutti e quattro, compreso quello di Reina su Cuadrado, anche se Tiziano Pieri non è così d'accordo, quantomeno paragona quell'episodio a quello di Mandzukic, secondo me hanno poca somiglianza, però mettiamo che ci fossero tutti e quattro i rigori di questa partita. Poi la polemica si è spostata sul piano paratelevisivo, mettiamola così. Prima abbiamo sentito l'opinione di Maurizio Lombardo, che portavoce del Nicola Lombardo, che portavoce del Napoli. Allora, ieri sera è successo questo, per quanto riguarda la partita, se a qualcuno volesse interessare. Gran primo tempo del Napoli, Allegri che ha, diciamolo, sbagliato la formazione partendo con la difesa 3, nell'intervallo ha portato il correttivo Cuadrado, è tornato alle 5 stelle, Sarri non è stato in grado di rispondere, forse questo è uno dei suoi limiti, e Marco Bellinazzo annuisce, e poi ci sono gli episodi. Sì, è così. Ed è tutta una stessa storia che però va divisa, va compresa in tutte le sue diverse parti, perché sennò se si confonde diventa, non so, un'insalata russa, anche nell'insalata russa, voglio dire, si capisce quando stai mangiando il pezzettino di patata o il pisello o, hai capito, o il fagiolino. Se invece tutto insieme è sempre tutto uguale, secondo me non fai più fatica a distinguere niente. La partita è come l'hai raccontata tu, ha somigliato tanto alla partita del Bernabeu. E nella dinamica, nella scansione dei gol e anche tutto sommato nell'affanno che ha dimostrato il Napoli nel gestire la partita, al netto delle situazioni che la condizionano ma non la spiegano del tutto. Quindi due volte su tre è successo questo, e una volta il presidente si è ripresa con l'allenatore, e poi ieri erano in silenzio stampa però parlano, e poi la colpa delle moviole, delle regie pilotate, e poi si sa che tanto gli arbitri sono tutti della Juve, e poi non so che cos'altro ancora, ma non è tutto questo qualcos'altro ancora, secondo me, che spiega le due sconfitte del Bernabeu o dello stadio. Penso che Benignazzo sia d'accordo, da napoletano. Guarda, io credo che il Napoli abbia perso delle partite sul campo, ma rischi di perdere la faccia come società, perché certe reazioni spropositate, insomma, ti portano sempre a essere dalla parte del torto. Non mi piace dare la colpa agli arbitri, alle TV, sì, agli opinionisti, alle moviole. Che è un amico, diceva che il Napoli è una società che protesta storicamente meno con gli arbitri. Sì, ma gli episodi, però è indimenticabile quella mancata presenza al ritiro della medaglia a Pechino. Non mi piacciono questi atteggiamenti, non sono da società seria e da società che deve, come dire, crescere, cosa che il Napoli deve assolutamente fare. Chiaramente nel momento in cui c'è tanta concitazione, gli errori si possono commettere, ma non bisogna perseverare. Se Napoli ha perso determinate gare importanti, cruciali, come quelle con Real Madrid, come quella con la Juve, non dimentichiamo la sconfitta interna con l'Atalanta, cioè partite importanti in cui più o meno ha giocato sempre nello stesso modo o addirittura non giocato come ieri sera nel secondo tempo perché non ha fatto un tiro in porta, beh, vuol dire che c'è qualcosa che non va nella gestione della squadra. È qualcosa di, come dire, di sportivo. Il Napoli sta crescendo, ci può stare. Non bisogna, come dire, drammatizzare nel farne colpe particolari, e bisogna semmai mettersi a lavorare e capire perché, per esempio, entra Cuadrado e il Napoli continua a giocare allo stesso modo senza che l'allenatore, come dire, pensi ad un rimedio ad hoc, posto che tutti sapevano che in quel momento la Juve avrebbe accelerato le operazioni e Cuadrado avrebbe cercato di spaccare la partita, cosa che puntualmente è avvenuta. Sì, quindi mettiamo dei dubbi anche sulla capacità di Sarri di gestire il corso delle partite, Maurizio? Un po' sì, assomiglia a questa difficoltà al non voler mai troppo cambiare i giocatori, la formazione iniziale, né prima della corsa né durante. E questo effettivamente è un limite che il Napoli di Sarri dimostra, mentre quando riesce a sviluppare il suo disegno sono pochi a disegnare così bene. La capacità però di adattarsi alle situazioni reagendo all'interno delle medesime è quello che fa anche una squadra forte una grande squadra, uh-huh. Una squadra vincente. Questo il Napoli in certi momenti ancora non ce l'ha, e non è colpa della regia di Infront, non è colpa della Juve, non è colpa, no. Detto questo, Maurizio, ieri Pavoletti in panchina, chiaro, c'era per esempio un centrocampo del Napoli formato da Zilinski, di Avarà e Rog, tutti giovanissimi, 65 anni, di grande prospettiva. Questo va dato assolutamente merito alla società, però appunto si rischia poi con certi comportamenti o cercando alibi e situazioni anche giuste, perché ora dal punto di vista della logica aristotelica, se ci fosse stato il rigore per Albiol non ci sarebbe, non sarebbe stato quello dopo, ma la partita sarebbe cambiata. Ma il calcio così è fatto di episodi, da tifosi si può imprecare, si può credere, insomma, poi c'è il grande piromane Juventus, nella malafede, oppure c'è il grande piromane Juventus, come dicevo prima, ma questo devono fare i tifosi, lo faccio anch'io, anch'io da tifoso, però poi quando si analizzano le cose si deve guardare alle vere ragioni, si deve essere lucidi, perché altrimenti si fanno più danni di quelli che già ci sono. Verissimo, concordo, Mao. Eh sì, è così, è un'analisi, mi fa piacere che Marco è lucido, altro che tifoso. Sì, è anche tifoso, ma alla fine è un analista lucido non solo dei conti del calcio, ma anche delle situazioni, dei personaggi. Quindi è così, insomma, non è giusto mai sedersi davanti allo specchio e dire colpa di un altro quando c'è qualcosa che non va. No, poi però il grande piromane, no? L'alibi te lo offre sempre, grande, sì, piromane. Ma poi Juventus è anche facile così, alla fine non cresci mai, perché poi con i figli, no? Se la colpa è sempre, l'abbiamo detto forse altre volte, sei sempre del professore, della maestra, dell'allenatore di mini basket che non ti vede fare, povera stella, e il professore che ce l'ha con te, ma quando li cresci? I calciatori non sono figli, però in qualche modo sono ragazzi e sono persone. Io anche i professionisti, io li immagino sempre all'interno comunque di un percorso, come dire, di crescita educativo. Hanno, insomma, si dice sempre, forse si fa un po' di retorica su questo, però parlano a tanta gente, parlano a tanti ragazzi, a tanti bambini. Quindi se loro stessi non fanno parte di questo percorso, allora cosa sono? Dei bamboccetti che piangono perché gli è portato via il giocato. Insomma, no, non mi piace. Grazie Maurizio Crossing. Grazie a voi. Ciao. Baci e abbracci. Ciao Maurizio, Crosetti. Adesso ci avviciniamo al momento della spiegazione della non closing. Luca da Torino prima. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Scusate, ho telefonato perché credo di avere la presunzione, in quanto io ieri ero presente, come sempre, allo Juventus Stadium. E dalla mia fetta, Primo Anello, proprio in corrispondenza del rigore presunto richiesto dal Biol, ma si è visto, cioè abbiamo questa presunzione di aver visto meglio noi, assolutamente, glielo giuro, di Pieri, di tutte le persone a casa, della dirigenza del Napoli e soprattutto di Reina. Questo giocatore assolutamente, ma non glielo dico peraltro, perché però si è veramente buttato, poi tutto il resto è venuto di conseguenza. Ma questo, come dicevate, esattamente voi. Io mi fido, Luca, tendo a fidarmi, però ho visto anche le immagini, insomma, il contatto con Pjanic c'è, e questo si vede nelle immagini rallentate. Ovviamente verrà la VAR e dirimerà la questione. Poi è chiaro che in presa diretta si ha una sensazione che è anche quella che ha l'arbitro che è in campo, che è deputato a decidere. Poi, detto questo, quel rigore ci stava, secondo me, con tutto il rispetto. Poi, se c'era quello per... Prima Marco citava Aristotele, non ci sarebbe stato quello successivo. Però è anche vero, eccetera, sai, eccetera, che eccetera. Ora io ho grande stima di Sarri, proprio per questo pretendo tanto da tifoso, no? Poi da... giornalista, penso che possa effettivamente dare di più, perché seguendo tutte le partite del Napoli vedo più o meno gli schemi sono sempre gli stessi, le sostituzioni, quindi insomma ci si deve inventare qualcosa. Che si gioca contro una squadra come la Juve, che oltre a vincere da 5 anni quest'anno ha inserito nell'organico i due giocatori più forti delle sue inseguitrici, cioè Higuaín e Pjanic. Meglio della Juve, che ha i soldi, che ha fatturato, che ha un'organizzazione commerciale, ha uno stadio che fa soldi e si può permettere questo. Demerito di Napoli e Roma, che hanno tra mille difficoltà non riescono ad aumentare il proprio fatturato e di conseguenza devono cedere i migliori giocatori per varie ragioni, non entriamo da questo punto di vista. Però dico, quando c'è una squadra così più forte ti devi inventare qualcosa, secondo me, per riuscire a competere. Devi usare la fantasia, pensiamo devi usare all'Atalanta di Gasperini, no? Ma sicuro, quindi da questo punto di vista non mi piace cercare alibi. Dopodiché la sensazione che ho avuto anch'io, che quello in realtà, a differenza insomma del nostro ascoltatore, io da tifoso l'ho visto come rigore, e poi però anche è vero che lì partono due giocatori più veloci della Juve in contropiede, non c'è la difesa poi, del Napoli, poi possiamo discutere anche discutiamo pure degli errori di Valeri, ma l'uscita a farfalle di Reina, che permette a Higuaín di segnare da due passi, è pure un errore tecnico di gioco come quello dell'arbitro. Vabbè, Francesco Prato, poi andiamo sul mancato closing, andiamo sul grosso guai. Pronto, Vicente? Sì. Salve, sono Francesco da Prato, ma tifosissimo del Napoli. Sì. Niente, volevo dire, praticamente volevo fare una domanda, se fosse possibile, lì allo Juventus Stadium, perché non si potrebbero arrivare gli arbitri stranieri? Qua mi spiego, perché alcuni arbitri italiani non sono tranquilli lì allo Juventus Stadium, compreso anche Rizzoli, che l'ho visto in Champions, che è uno dei migliori. Ah. Questo è il discorso, non so se è possibile. Juventus Stadium, quando la Juve gioca in casa, chiamiamo quelli dall'estero, così avranno magari meno sudditanza psicologica o il mostro farà meno paura. Non so se questa possa essere una soluzione necessaria e praticabile. Facciamo anche sentiamo anche Danilo da Napoli, poi veramente andiamo sul Milan. Danilo, salve, buonasera. Merito alle polemiche di ieri, no? Si fa un gran polverone, alla fine è stata una partita con 5 episodi dubbi. I primi due riguardano il fuorigioco di Caion millimetrico e prima il rigore non dato su Dybala che ci poteva fare, e poi il fuorigioco millimetrico. Insomma, basta questo per dire che poi la partita ha preso la sua piega ed è stata una partita, certo, l'arbitro ha avvisato una partita difficile, ma non credo abbia condizionato il risultato. Magari poteva finire 2-2, magari 3-2, 3-1, chi lo fa, ma non credo, soprattutto in vista dei primi due errori contro Juve, se li vogliamo chiamare così. Un'opinione vostra in merito. Vale il discorso complessivo, per cui se la polverizziamo questa gara in micro episodi come stiamo facendo da ieri sera è un conto, se guardiamo la partita nel suo complesso io mi accodo al professor Belinazzo e dico che il Napoli ha fatto un grande primo tempo e nel secondo non ha saputo reagire comunque alle contromosse della Juventus. Il disegno della partita è questo, le pennellate sono quelle di Valeri. Allora Marco, col Milan che succede? Beh, alle 15:23 mi piace 11 usare questa espressione per far capire che siamo in diretta, in direttissima, in collegamento diciamo con gli uffici di Milano, satellite di Milano, in cui si stanno svolgendo in queste ore febbrili insomma le ultime trattative. Insomma, l'opzione più probabile è quella che poi era emersa già nella serata di ieri, e cioè di uno slittamento al fine mese del closing, quindi una proroga, in cambio 100 milioni come terza tranche di Caparra. Questo diciamo per guardare ai fatti immediati e a quello che naturalmente c'è un problema. Si profila. C'è però non uno, ce ne sono diversi. Dopo aver salutato in pompa magna Berlusconi con lo striscione della curva, dopo aver detto che quella con la Fiorentina era l'ultima partita in casa dell'era Berlusconi, dopo aver versato fiumi di inchiostro nel ricordare il Milan dall'86 a oggi, quello che ha vinto, eccetera, eccetera. Adesso tutto questo sembra saltare. Sicuramente slitta. il problema vero è quello che accadrà in futuro. Sì, perché guarda, la vera sorpresa poi di questi giorni, e da questo punto di vista credo che la Fininvest abbia davvero poche colpe, se non nell'aver accettato una trattativa basata su questi presupposti, e cioè sul fatto che la trattativa fosse condotta da un broker, un intermediario come il signor Lee, e quindi non da un soggetto industriale come Suning per quanto riguarda l'Inter, così ci capiamo. La sorpresa è stata quella di ritrovarsi a quattro giorni dalla data definitiva con una situazione completamente diversa, nel senso che già dal preliminare lo scorso agosto venivano indicati come possibili soci, quindi come soggetti che ci mettevano dei soldi direttamente, quindi prendevano quote dell'Inter, sia pure attraverso un fondo, scusate, del Milan, e quindi attraverso un fondo che diventava proprietario del club rossonero, e quindi in qualche modo ci mettevano la faccia, i soldi, sì, responsabilità, sì. Ed erano istituzioni importanti come Warong, istituzioni legate al governo di Pechino. Ecco, di colpo ci troviamo di fronte al fatto che l'unico soggetto che è signor Lee. Signor Lee diventerà unico proprietario del Milan, e questi altri soggetti finanziari diventano pure appunto semplicemente dei soggetti che prestano soldi, altri si sono completamente sfilati. Ma com'è possibile che questo accada di colpo dopo una vicenda così lunga e complessa? Allora, c'è da dire che già nel preliminare, quando venivano elencati questi 11 nomi, si diceva che questi avrebbero potuto essere soci, ma che non erano i soci, e che l'intermediario, appunto il signor Lee, Li Yongyong, tanto per essere più precisi, anche se magari la dizione non è esatta, sicuramente sbagliata, ma il signor Lee, come dire, si faceva garante del fatto che, a fronte della caparra, quindi i soldi comunque sono arrivati al Milan, perché c'è che dei 200 milioni al momento sono in cassa, ce ne saranno magari 300 non al Milan, alla Fininvest. Alla Fininvest, ecco, ci arriviamo a quest'altro aspetto. C'è da dire che questi soggetti poi appunto avrebbero potuto essere, il signor Lee si riservava la possibilità di definire diversamente il consorzio, ma questi dovevano essere soci, cioè coloro che poi garantivano il futuro, certo, del Milan. Per cui il problema adesso è, mettiamo che entro il 31 marzo arrivino gli altri 220 milioni più, sempre alla Fininvest. Cioè, questo signor Lee che rimane lì da solo con quanti soldi in tasca da mettere nel Milan? Praticamente zero, perché noi andiamo bene, dico zero perché abbiamo tutte le verifiche fatte da me, ma anche da tanti altri colleghi, sulle disponibilità finanziarie del signor Lee, ci hanno portato scarsi risultati. Ora sarà nostra incapacità, non lo so, però di fatto con Suning è stato semplice capire chi era e quanti soldi aveva. Signori, è un broker, un intermediario, un po' come Mr. B, tanto per rievocare soggetti cari ai milanisti. Ebbene, cari non so quanti. Il problema è che questa operazione era completamente a debito, cioè faccio debito per comprare il Milan e sulla base di quello che ricavo dal Milan io ripago questo debito. Un'operazione che avevano fatto anche i Glazer con il Manchester United, esattamente fatto in questo modo, però il Manchester United in poco tempo è diventata la squadra più ricca al mondo, fa 700 milioni di fatturato all'anno, e quindi questo debito è stato dagli americani ripagato. C'erano stati tanti tifosi scontenti, addirittura avevano fondato un'altra squadra. Sì. Nel caso del Milan il problema è che per riportare il Milan a fare da 200 a 500 milioni di fatturato ci vorrebbero 5-6 anni. Certo. E quindi il problema è chi sostiene finanziariamente per 5-6 anni il Milan, soprattutto perché c'è bisogno di altri 70 milioni da mettere per la gestione 2016-2017, un centinaio di milioni almeno per fare la campagna acquisti, per rinforzare la squadra, in più ci sono i 220 milioni di debiti da come dire, assorbire, e quindi è chiaro questa che tua domanda non ha risposta. Al momento non ha risposta, ma lo avrà, spero, nelle prossime ore, soprattutto per il Milan e per i suoi tifosi. Grazie Marco Berinazzo, sentiamo presto. A presto. Grazie a tutti voi, grazie a Giorgio Luca, il nostro autore, a Paolo Corleone, oggi in regia, Edoardo Lavezzari, come sempre in redazione. Ci sentiamo domani alle 14:00.